ad alta voce. Anita Caprioli legge Patricia Highsmith. La mano. Un giovane chiese a un padre la mano della figlia e la ricevette in una scatola, la mano sinistra. Il padre: hai chiesto la sua mano e l'hai avuta, ma io credo che tu volessi altre cose e che te le sia già prese. Il giovane: cosa vuole insinuare? Il padre: secondo te cosa voglio insinuare? Non vorrai negare che io sia più onesto di te, dato che tu hai preso qualcosa alla mia famiglia senza chiederla, mentre io, quando mi hai chiesto la mano di mia figlia, te l'ho data. In realtà il giovane non aveva fatto niente di disonorevole. Il padre era semplicemente un tipo sospettoso dalla mente contorta. Il padre poteva scaricare sul giovane la responsabilità legale del mantenimento della figlia e spremergli molto denaro. Il giovane non poteva negare di aver avuto la mano della figlia, anche se l'aveva sepolta in un accesso di disperazione dopo averla baciata. D'altra parte, era stata staccata 2 settimane prima. Il giovane voleva vedere la figlia e fece un tentativo in questo senso, ma fu praticamente bloccato dai venditori che l'assediavano. La figlia affermava sempre con la mano destra, invece di morire dissanguata, prosperava come non mai. Il giovane annunciò sui giornali che la ragazza aveva abbandonato il tetto e il letto coniugali. Ma avrebbe dovuto anche dimostrare che li aveva goduti prima. Non era ancora un matrimonio il suo, né sulla carta né davanti a Dio. Eppure non c'erano dubbi. Aveva la sua mano e aveva firmato la ricevuta quando gli era stato consegnato il pacco. «La sua mano in che cosa?» chiese il giovane, ormai disperato e ridotto alla miseria, ai poliziotti. «La sua mano è sepolta nel mio giardino. Lei è anche un criminale, allora. Non solo un tipo un po' disorganizzato, ma uno psicopatico vero e proprio. L'ha tagliata lei per caso la mano a sua moglie?» «No, non sono stato io, e non è nemmeno mia moglie.» «Ha avuto la sua mano, eppure non è sua moglie?» lo schernirono gli uomini della legge. «Cosa dobbiamo fare di quest'uomo? Sragiona, forse addirittura pazzo. Bisognerà chiuderlo in manicomio, dato che non ha più un soldo, in un manicomio di Stato.» Così il giovane venne rinchiuso, e una volta al mese la ragazza di cui aveva chiesto e avuto la mano andava a fargli visita, e gli parlava attraverso la grata di fil di ferro, come una buona moglie. E come la maggior parte delle mogli, non aveva niente da dire, ma gli faceva dei gran sorrisi. Ora al giovane veniva corrisposta una piccola pensione per il lavoro svolto in passato, ed era lei a deciderla. Teneva un bunkerino nascosto in un manicotto. Dato che dava ormai segni di disgusto alla vista della ragazza, il giovane venne trasferito in un reparto peggiore, privato dei libri e della compagnia degli altri malati. E finì per impazzire davvero. Quando impazzì, tutto quello che gli era successo, la richiesta e la consegna della mano dell'amata, gli fu improvvisamente chiaro. Si rese conto di quale orribile errore, crimine, addirittura si fosse reso colpevole nel fare una richiesta così barbara. Parlò a coloro che l'avevano imprigionato e spiegò che ora capiva il suo errore. «Quale errore? Chiedere la mano di una ragazza? Ma l'ho fatto anch'io quando mi sono sposato.» Il giovane, che ora si sentiva pazzo al di là di ogni possibilità di recupero, dato che non riusciva più a stabilire contatti con niente e nessuno, rifiutò di mangiare per parecchi giorni. E alla fine si sdraiò sul suo lettino, con la faccia al muro, e morì. La coquette. Che aveva un corteggiatore del quale non riusciva a liberarsi. Lui prendeva sul serio i suoi voti e le sue promesse e non voleva saperne di sparire. Credeva perfino ai suoi cenni maliziosi e invitanti. Questo infastidiva la ragazza perché intralciava le sue nuove amicizie, che significavano regali, complimenti, fiori, inviti a cena, eccetera. Alla fine Yvonne mentì al suo corteggiatore Bertrand. Lo insultò e non gli concesse più niente, letteralmente, meno ancora del niente che concedeva agli altri suoi amici di sesso maschile. Eppure Bertrand non smise di corteggiarla, perché considerava il suo un comportamento normale in una donna, un semplice eccesso di modestia. Lei gli disse perfino alcune cosette, per la prima volta in vita sua fu sincera. Disabituato com'era alla verità, dato che da una donna graziosa si aspettava sempre una totale falsità, Bertrand prese le sue parole per sintomi di incostanza e mutevolezza, e continuò a starle intorno. Yvonne tentò di avvelenarlo, invitandola a casa e mettendogli dell'arsenico nella cioccolata. Ma lui si riprese e considerò il tentativo un'ulteriore deliziosa prova della paura che Yvonne aveva di lui. Forse temeva di perdere la propria verginità. In realtà Yvonne l'aveva già perduta all'età di 10 anni, quando aveva raccontato a sua madre di essere stata violentata. In questo modo Yvonne aveva mandato in prigione un uomo di 30 anni. Aveva cercato di sedurlo per 2 settimane, raccontandogli di avere 15 anni e di essere pazza di lui. Aveva provato piacere nell'ovinargli la carriera e nella infelicità e nella vergogna, e sua figlia di 8 anni nel più assoluto stupore. Gli altri uomini davano a Bertrand dei consigli. «Ci siamo passati tutti», dicevano, «siamo magari stati anche a letto con lei un paio di volte. Tu non hai avuto nemmeno quello, e lei non vale niente». Ma Bertrand pensava di essere diverso dagli altri, agli occhi di Yvonne, e anche se si rendeva conto di dar prova di una pertinacia fuori del comune, tendeva a considerare questo fatto una virtù piuttosto che un difetto. Yvonne incitò un nuovo corteggiatore a uccidere Bertrand. Si guadagnò la sua complicità promettendogli che l'avrebbe sposato se avesse eliminato Bertrand. A Bertrand disse la stessa cosa dell'altro uomo. Il nuovo corteggiatore sfidò Bertrand a duello. Mancò il primo colpo e cominciò a parlare con quella che avrebbe dovuto essere la sua vittima. La pistola di Bertrand si era addirittura rifiutata di sparare. Scoprirono che Yvonne aveva promesso di sposare entrambi. Nel frattempo i due le avevano fatto regali costosi e le avevano prestato dei soldi durante piccole crisi economiche nel corso degli ultimi mesi. Si arrabbiarono moltissimo, ma non riuscirono a escogitare un modo di fargliela pagare. E così decisero di ucciderla. Il nuovo corteggiatore andò da lei e le disse di aver ucciso l'insistente e stupido Bertrand. Poi Bertrand bussò alla porta. I due uomini misero di mezzo Yvonne e la uccisero con vari colpi in testa. Raccontarono poi che la donna aveva cercato di separarli ed era stata colpita per sbaglio. Dato che il giudice della città era stato a sua volta vittima della civetteria di Yvonne e aveva dovuto subire il dileggio dei concittadini, fu segretamente compiaciuto della morte della donna e assolse i due uomini senza problemi. Era anche abbastanza saggio da capire che quei due non avrebbero potuto ucciderla se non fossero stati infatuati di lei, uno stato questo che gli ispirava compassione, dato che aveva ormai raggiunto la rispettabile età di 60 anni. Solo la cameriera di Yvonne, che era sempre stata ben pagata e riempita di mance, partecipò ai suoi funerali. Yvonne era detestata perfino dalla sua famiglia. L'invalida. Era caduta una volta sciando a Chamonix col fidanzato una decina d'anni prima. La sua infermità aveva a che vedere con la schiena. I medici non trovavano niente di particolare, nessuno riusciva a capire cosa era la sua schiena, ma diceva che le faceva sempre male. In realtà non era sicura di riuscire ad accaparrarsi un uomo se non fingendo di star male, e proprio a causa di un incidente avvenuto mentre era con lui. Philippe comunque era innamorato e lei non avrebbe dovuto preoccuparsi più di tanto. Nonostante questo, incastrare Philippe e assicurarsi una vita di ozio, per non dire letteralmente sdraiata a letto o dovunque scegliesse di stendersi, non era una conquista da poco. Era una grossa conquista. Quante altre donne riuscivano ad accaparrarsi un uomo per la vita e a farsi mantenere nel lusso senza dar niente in cambio, senza dover nemmeno cucinare? Certi giorni si alzava, spinta soprattutto dalla noia. Questo capitava, ma non sempre, quando splendeva il sole. Quando il sole non c'era o quando minacciava di piovere, Christine si sentiva malissimo e restava a letto. Allora suo marito Philippe doveva scendere giù con la borsa della spesa e tornar su a cucinare. Christine non parlava d'altro che di come mi sento. Amici e conoscenti dovevano sorbirsi lunghi racconti a base di iniezioni, pillole, i dolori alla schiena che le avevano impedito di chiudere occhio mercoledì notte e la possibilità che il giorno dopo piovesse, da come si sentiva. Ma si sentiva sempre piuttosto bene in agosto, quando lei e Philippe andavano a Cannes. Le cose potevano anche andar male ai primi del mese, però costringendo Philippe a noleggiare un'ambulanza per andare a Orly e a prenotare un posto speciale su un aereo per Nizza. A Cannes, Christine riusciva sempre a stare abbastanza bene, da recarsi alla spiaggia tutte le mattine alle 11, nuotare per qualche minuto con l'aiuto di un paio di alette e consumare una buona colazione. Ma alla fine di agosto, di ritorno a Parigi, soffriva di una ricaduta per l'eccitazione, il buon cibo e lo sforzo fisico in generale, e ancora una volta era costretta a restare confinata a letto con la bronzatura e tutto. A volte mostrava le gambe abbronzate ai visitatori, sospirava ricordando la vacanza a Cannes e poi le ricopriva con lenzuole coperta. Settembre annunciava in realtà l'arrivo del duro inverno. Philippe non poteva dormire con lei, anche se Dio sa se non se lo fosse meritato un trattamento migliore dopo essersi consumato le dita a lavorare per pagare i conti del dottore, del radiologo e del farmacista incommensurabili. Doveva invece affrontare un altro inverno solitario, e nemmeno nella stessa stanza con Christine, in quella attigua. «E pensare che sono stato io la causa di tutto questo», disse Philippe a uno dei suoi amici, «per averla portata a Chamonix». «Ma come mai si sente sempre così bene in agosto?» rispose l'amico. «Credi davvero che sia invalida? Prova a pensarci su un attimo, vecchio mio». Philippe cominciò davvero a pensarci su, perché altri amici gli avevano detto la stessa cosa. Gli ci vollero anni per pensare, parecchi anni di vacanze a Cannes, a una spesa che polverizzava i risparmi di 12 mesi, e parecchi inverni passati a dormire per la stanza degli ospiti, e non con la donna che amava e desiderava. E così, durante l'11 agosto a Cannes, Philippe prese il coraggio a due mani. Si mise a nuotare alle spalle di Christine con uno spillo in mano. Infilò lo spillo prima in una, poi nell'altra delle alette bianche di Christine. Non erano lontani dalla spiaggia, in un punto dove si toccava, ma appena. Philippe non era in gran forma. Non solo stava perdendo i capelli, cosa che non aveva la minima importanza in quel frangente, ma aveva anche messo su un po' di pancia, il che non sarebbe successo, rifletteva, se avesse potuto fare all'amore con Christine nel corso dell'ultimo decennio. Ma tentò comunque di tenere Christine sott'acqua, e ci riuscì, mantenendosi al tempo stesso a galla, seppure con qualche difficoltà. I suoi movimenti confusi, notati da alcuni dei presenti, alla fine sembravano davvero quelli di chi cercasse di salvare qualcuno che stava annegando. E questa, naturalmente, fu la spiegazione che Philippe diede alla polizia e a tutti gli altri. Christine, nonostante l'abbondante adipe, affondò come un pezzo di piombo. Christine non costituì una perdita per Philippe, se non in termini di spese funerarie. Dopo un po' Philippe perse la pancia e con sua grande sorpresa scoprì di essere piuttosto ricco, ora che non era più costretto a spendere ogni centesimo che guadagnava. I suoi amici si congratularono con lui, ma educatamente e inastrato. Non potevano proprio dire «grazie a Dio ti sei liberato di quella strega», ma si espressero in modo non molto diverso. Dopo 6 mesi circa, Philippe conobbe una ragazza carina, piena di energia, che adorava cucinare e fare all'amore con lui. Ricominciarono perfino a crescergli i capelli. L'artista. Ai tempi del suo matrimonio, nessuno avrebbe potuto pensare che ci fosse qualcosa che non andava in Jane. Era paffuta, carina ed efficiente. Sapeva praticare la respirazione artificiale, far rinvenire la gente e arrestare le emorragie nasali. Lavorava come assistente da un dentista e possedeva tutta la prontezza di spirito necessaria di fronte alle crisi e al dolore. Ma nutriva un vero e proprio entusiasmo per le arti. Quali arti? Tutte. Cominciò il primo anno di matrimonio con la pittura. La pittura le occupava tutti i sabati, o almeno abbastanza sabati da impedirle di fare la spesa per il weekend. Ma c'era suo marito Bob a provvedere. Era sempre lui a pagare le cornici dei ritratti a olio confusi e pasticciati che Jane faceva ai suoi amici e le sedute con i suoi studenti che occupavano la gran parte del weekend. Alla fine Jane si decide a prendere atto della propria incapacità di impedire ai colori di mescolarsi come volevano e decise di abbandonare la pittura per la danza. La danza, in calzamaglia nera, non migliorò di molto la sua figura robusta, solo il suo appetito. Poi arrivarono le scarpette speciali. Ora studiava danza classica. Aveva scoperto un istituto chiamato Scuola d'Arte. In quell'edificio a 5 piani si insegnavano pianoforte, violino e altri strumenti, composizione musicale, scrittura, cultura, poesia, danza e pittura. «Vedi, Bob, la vita può e deve essere resa più bella, più piacevole», diceva Jane col suo largo sorriso, «e tutti dovrebbero contribuire nel loro piccolo, se possibile, alla bellezza e alla poesia del mondo». Nel frattempo Bob vuotava la pattumiera e si assicurava che ci fossero ancora patate in casa. I progressi di Jane nel campo della danza classica non andarono oltre un certo limite e fu così che decise di lasciar perdere e dedicarsi al bel canto. «In realtà io penso che la vita sia abbastanza bella com'è», diceva Bob, «e comunque sono felice così». Questo durante il periodo canoro, nel corso del quale il soggiorno già piccolo venne ulteriormente ingombrato da un pianoforte verticale. Chissà per quale ragione Jane lasciò perdere le lezioni di canto e cominciò a studiare scultura e intaglio. La stanza di soggiorno diventò un caos di pezzetti di argilla e truccioli di legno che non sempre l'aspirapolvere riusciva a eliminare. Jane era troppo stanca per pulire dopo una giornata al gabinetto dentistico e dopo aver lavorato in piedi fino a mezzanotte il legno o l'argilla. Bob arrivò a odiare la scuola d'arte. L'aveva vista alcune volte quando era passato a prendere Jane verso le 11 di sera. Il quartiere non era di quelli in cui si potesse tranquillamente passeggiare di notte. Sembrava a Bob che gli studenti fossero tutti un branco di incapaci di belle speranze e gli insegnanti una manica di mezze calze. Quella scuola era un manicomio di sforzi mal riposti. E quante case, bambini e mariti erano nei guai perché le donne, gli studenti erano per lo più di sesso femminile, venivano meno al loro compito quello di sbrigare le faccende essenziali? Sembrava a Bob che non ci fosse ispirazione alla scuola d'arte, solo desiderio di imitare gente che l'ispirazione l'aveva avuta, come Chopin, Beethoven e Bach, di cui si sentiva bistrattare le opere seduto su una panca dell'ingresso in attesa della moglie. La gente chiama folli gli artisti, ma gli studenti di quella scuola sembravano incapaci di quel particolare tipo di follia. Parevano sì folli in un certo senso, ma non nel modo giusto. Considerato tutto il tempo per il quale la scuola d'arte lo privava della moglie, Bob era pronto a far saltare in aria l'edificio. Non dovette aspettare a lungo, ma non fu lui a prendere l'iniziativa. Qualcun altro, si seppe poi che si trattava di un insegnante, mise una bomba sotto la scuola d'arte, col timer regolato sulle 4 del pomeriggio. Era l'ultimo giorno dell'anno e nonostante fosse una specie di festa, gli studenti di tutte le arti si stavano diligentemente esercitando. La polizia e alcuni giornali erano stati avvertiti della bomba. Il problema fu che nessuno riuscì a trovarla e anche che la maggior parte della gente non credette all'avvertimento. Date le condizioni miserabili del quartiere, la scuola aveva già ricevuto minacce analoghe, ma la bomba scoppiò e non era neanche una bomba da poco. Bob si trovava là per caso perché doveva prelevare Jane alle 5. Aveva sentito la storia della bomba, ma non sapeva se crederci o meno. Per precauzione, comunque, o grazie a un presentimento, si era messo ad aspettare in strada invece che all'ingresso. Un pianoforte sfondò il tetto, seguito da vicino dalla studentessa seduta sullo sgabello con le dita premute nel vuoto. Una ballerina riuscì finalmente a fare alcuni volteggi completi senza toccare terra, dato che si trovava a qualche centinaio di metri d'altezza, con le dita dei piedi puntate addirittura verso il cielo. Un aspirante pittore attraversò una parete, pennello in mano, pronto per la pennellata decisiva, mentre volava orizzontalmente verso l'obliquo. Un'insegnante che aveva l'abitudine di rifugiarsi nella toilette appena poteva, saltò in aria in prossimità dei servizi igienici. Poi arrivò Jane, in volo, con un martello in una mano, uno scalpello nell'altra e l'espressione rapita. Era sbalordita, ancora assorta nel lavoro o addirittura morta? Bob non riuscì a capirlo. Le macerie volanti ricaddero con un rumore leggero che andò scemando in una nuvola di polvere grigia. Ci furono alcuni secondi di silenzio, durante i quali Bob restò immobile. Poi si voltò e si incamminò verso casa. Altre scuole d'arte sarebbero sorte, lo sapeva. Stranamente questo pensiero gli attraversò la mente prima che si rendesse conto che sua moglie se n'era andata per sempre. La casalinga piccolo borghese. Pamela Thorpe considerava il movimento di liberazione della donna uno di quegli stupidi movimenti di protesta dei quali i giornali scrivevano solo per riempire le pagine. Il movimento di liberazione della donna sosteneva di volere l'indipendenza per le donne, mentre Pamela pensava che le donne avessero sempre e comunque la meglio in ogni circostanza senza uomini. E allora perché tanto baccano? L'unica ragione per cui Pamela si pose questa domanda fu che sua figlia Barbara, tornata a casa in giugno dopo essersi laureata, le raccontò che ci sarebbe stata un'assemblea del movimento di liberazione proprio nella loro zona. Era stata Barbara a organizzarla con la sua compagna di università, Fran, figlia di conoscenti di Pamela. Naturalmente Pamela andò all'assemblea nella chiesa locale con l'idea di divertirsi un po', soprattutto, e sentire cosa avevano da dire le nuove generazioni. Palloncini variopinti e festoni di carta pendevano dalle travi e dai davanzali delle finestre di vetro colorato. Pamela fu sorpresa di vedere la giovane Connie Haynes, madre di due bambini piccoli, pontificare come una femminista convinta. «Le donne che lavorano hanno bisogno di asili nido gratuiti», gridò Connie, e le sue ultime parole furono quasi sommerse dagli applausi. «E agli alimenti il dissanguamento legalizzato degli ex mariti devono scomparire!» Applausi. Le donne si alzavano in piedi, battevano le mani, gridavano «Asili nido!». Pamela immaginò orde di lavoratrici, le donne erano convinte di voler lavorare, che abbandonavano le loro case alle 8 del mattino, parcheggiavano i bambini da qualche parte e alla fine della settimana portavano la loro brava busta paga in famiglia. Intanto sui fornelli non cuoceva niente per il prossimo pasto. Ora molte donne alzavano la mano per iscriversi e parlare, e così anche Pamela alzò la sua. Aveva molte cose da dire. «Non sono gli uomini i nostri veri nemici», gridò una donna da un banco. «Sono le donne a impedirci di andare avanti, donne egoiste e vigliacche che credono di avere qualcosa da perdere a chiedere uguale salario per uguale lavoro». «Mio marito», cominciò Connie, che all'improvviso aveva ripreso la parola e parlava a voce ancora più alta, «sta per dare l'esame di laurea in medicina e siamo preoccupati perché riusciamo appena a tirare la fine del mese. Io devo starmene a casa a tenere i nostri due bambini. Se prendessimo una babysitter, tutto il denaro che potrei guadagnare se ne andrebbe per pagarla. Ecco perché dico sì agli asili nido gratuiti. Non sono troppo pigra per lavorare io». Altri applausi e grida. Pamela si alzò in piedi. «Asili nido?» disse, e dovettero sentirla perché la sua voce sovrastava tutte le altre. «Voi giovani, io ho 42 anni, sembrate non rendervi conto che il posto di una donna è in casa, che il suo lavoro è renderla accogliente, che con una generazione di bambini cresciuti negli asili nido alleverete una generazione di delinquenti!» Un tremendo baccano zittì Pamela per un attimo. «Questo non è mai stato provato!» urlò una voce di ragazza. «E l'abolizione degli alimenti? Forse tu sei anche contro l'abolizione degli alimenti?» chiese un'altra voce. Era quella di sua figlia Barbara. Le facce erano ormai indistinte. Pamela ne riconobbe qualcuna vicina di casa da anni, ma non riusciva a riconoscerle davvero nel loro nuovo ruolo di avversarie, di nemiche. «Quanto agli alimenti», riprese Pamela ancora in piedi, «è compito del marito mantenere la famiglia, non è forse vero? Anche nel caso in cui sia la moglie ad andarsene?» chiese una voce. «Certe donne ne approfittano in maniera vergognosa e questo rovina la reputazione di tutte. Ogni causa di divorzio dovrebbe essere presa in considerazione separatamente», gridò un'altra voce. «Le donne verranno vittimizzate», replicò Pamela. «L'abolizione degli alimenti è stata definita licenza di libertinaggio e lo è. Distruggerà i buoni pasto delle donne». Caos. Ora la frittata era fatta. Forse la scelta di quell'espressione «buoni pasto» non era stata delle più felici, ma ormai l'intera congregazione o marmaglia era in piedi. L'adrenalina prese a scorrere più veloce nelle vene di Pamela per aiutarla a far fronte alla situazione. Si rese conto che avrebbe anche dovuto difendersi, perché all'improvviso l'atmosfera si era fatta cattiva, ostile. Ma non era sola. C'erano almeno 4 donne, tutte vicine di casa e tutte di mezza età come lei, dalla sua parte, e Pamela si accorse che la folla si stava organizzando in gruppi o crocchi. Le voci si fecero ancora più alte, cominciarono a volare bibbie. «Splot! Reazionarie! Rovina famiglie! Suppongo che siate anche contro l'aborto!» Un uovo beccò Pamela proprio in mezzo agli occhi. Si pulì la faccia con un fazzoletto di carta. Da dove era venuto quell'uovo? Ma certo, molte donne avevano con sé la borsa della spesa. I pomodori solcavano l'aria come bombe a mano rosse. Il rumore era quello di un furibondo starnazzare di galline o qualche altra specie di volatili molto agitati in uno spazio chiuso. Non c'erano schieramenti veri e propri. I gruppi lottavano l'uno contro l'altro a distanza ravvicinata. Pam! Il rumore di un barattolo di qualche cosa picchiato sulla testa di una donna come rappresaglia per, così asserì la salitrice, un'ingiuria peggiore. Ora erano entrati in gioco anche alcuni ombrelli, almeno 3 o 4. «Ascolta quello che dico! Brutta puttana! Basta, smettetela! Avanti, sedetevi! Dov'è la presidente dell'assemblea?» Pamela vide alcune donne affollarsi alla porta per andarsene. Poi, con sua grande sorpresa, si ritrovò con un pesante sgabello in mano, sul punto di lanciarlo. Quanti ne aveva già scagliati? Pamela si lasciò cadere lo sgabello sulle dita dei piedi e si chinò giusto in tempo per evitare di prendersi un cavolo in testa. Si beccò invece proprio sulla tempia destra un barattolo da mezzo chilo di fagioli stufati. Morì nel giro di pochi secondi e la sua assassina non fu mai trovata. Anita Caprioli, all'elettro Patricia Smith. A cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Ad alta voce @rai.it